strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Crisi e numeri di mercato, un semestre nero per l'automotive europeo nei primi sei mesi di questo complicato 2020. I volumi immatricolati si sono infatti attestati a circa 5 milioni di unità, con una flessione di circa il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un consuntivo in forte calo, quello raccontato da Anfia sui dati di Acea, che corrisponde ad una perdita di 3,3 milioni di auto e che coinvolge soprattutto i mercati maggiori, con l'Italia a meno 42%. Cala la domanda, calano anche i prezzi. È una crescita moderata quella dei prezzi delle auto nuove in Italia. Nei primi sei mesi del 2020 sono infatti cresciuti del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, una percentuale più bassa del 2,5% con cui si era chiuso l'anno scorso. Lo rileva l'osservatorio Autopromotec sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Il rallentamento è certamente dovuto alla contrazione della domanda di auto causato dalla crisi economica in atto. Il noleggio tira un sospiro di sollievo. Secondo Aniasa, il noleggio auto sarà il protagonista della mobilità estiva 2020, con 3 italiani su 10 pronti a noleggiare una vettura per raggiungere le mete di vacanza. Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo-aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di maggio e giugno, il settore si sta ancora misurando con una contrazione del 50%, con uno sguardo fiducioso però sulle prossime settimane. E cambiamo argomento, parliamo di mobilità elettrica, sicuramente al centro in questo momento degli interessi sia governativi, sia dei produttori, dei costruttori, ma anche dei clienti, visti anche gli importanti incentivi riconfermati con la riconversione in legge del decreto rilancio, incentivi che dovrebbero ancora di più sostenere e lanciare un settore, quello della mobilità elettrica, che rappresenta sicuramente il settore del futuro. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Dino Marcozzi, segretario generale di Motus E. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, buonasera a lei. Allora, cominciamo con il ricordare ai nostri radioascoltatori che cos'è Motus E. Sì, Motus E è una piattaforma sostanzialmente che vuole coprire un po' tutta la catena del valore della mobilità elettrica, a partire dai mezzi fino ai consumatori. Quindi partiamo da FCA e Volkswagen, passiamo attraverso Enel X, A2A ed altri, passiamo per Allianz, passiamo per ALD e finiamo fino ad Econsum. L'importante per noi è fare una piattaforma di dialogo e di lavoro che possa aiutare a superare tutti i problemi che ancora esistono, indubbiamente. Ecco, quindi una sorta di tavolo di confronto fra tutti gli attori di questa complessa filiera, appunto, per consentire il lancio, il rilancio di questo settore. Qualche giorno fa c'è stato il vostro consueto evento annuale, tra l'altro in una forma digitale anche abbastanza originale, poi forse proveremo a raccontarla attraverso una piattaforma internet in cui si entrava con degli avatar virtuali all'interno di questo mondo e si seguivano i vari eventi, ma poi ce lo racconterà lei. Entra nel futuro, in realtà questo titolo più che rappresentare quello che è il futuro rappresenta il presente, perché la mobilità elettrica è ormai entrata di fatto nella vita di tutti i cittadini. Sì, è vero questo. In realtà entra nel futuro era solo per dire il futuro è già qui, però entriamoci bene, compiutamente, nel senso superiamo tutti i ritardi che abbiamo ad esempio verso altre nazioni europee che sono piuttosto più avanti, no? Tipo Germania, Francia, eccetera. Noi abbiamo riflettuto che cosa fare di questo evento, cioè se rinviarlo o meno, come hanno pensato in tanti. Poi siamo detti, ma perché rinviarlo? No, lo facciamo esattamente più o meno nello stesso periodo in cui lo dovevamo fare, ma ci inventiamo una cosa nuova. Siccome le barriere principali essenzialmente erano quelle di spazio e tempo, abbiamo detto accorciamo i tempi, quindi comprimiamo i tempi, perché ormai la gente muore di webinar in giro. Purtroppo sì. E quindi abbiamo detto facciamo una cosa compattata in cui ogni diciamo, ogni evento all'interno, le tavole rotonde sono tutte in parallelo, per cui uno può scegliere che cosa vuole vedere. E ci siamo inventati questa modalità un pochino accattivante, che è quella di creare una specie di città virtuale elettrica, in cui uno prende un avatar, si sceglie un avatar, il colore della pelle, degli occhi, eccetera, poi sale su una delle dei mezzi elettrici e va a vedere quello che vuole. In realtà erano quattro tavole rotonde e poi c'era una premiazione per i migliori paper universitari e la migliore tesi che abbiamo lanciato qualche mese fa e che insomma ha portato poi a vedere qual era i migliori, abbiamo dato i premi, insomma è stata una cosa abbastanza interessante. Ecco, entriamo nei contenuti, abbiamo raccontato sì. Il contenitore, ma entriamo nel vivo di quelli che sono stati gli incontri di questa giornata dedicata alla mobilità del futuro. Che cosa si è visto all'interno di questi spazi e soprattutto quali sono gli scenari che si sono configurati e preconfigurati per il futuro? Sì. Allora, detto che il sito si chiama entranelfuturo.com e per almeno 3 mesi tutti i contenuti sono lì, quindi si può fare sempre il solito giro e andare a vedere quello che, diciamo, interessa, se qualcuno si fosse perso qualcosa. E qualcuno si è perso qualcosa, perché devo dire, era talmente complessa la cosa tra il gioco, i quattro così in parallelo, le quattro tavole in parallelo, eccetera, che insomma qualche problemino tecnico l'abbiamo avuto, perché era veramente innovativo. I tavoli erano uno sulla mobilità privata, uno sulla pubblica, poi ce n'era uno di fatto sull'industria e poi un altro sull'infrastruttura, che sono poi i quattro temi fondamentali. I nostri tavoli in realtà sono 10, non è un solo tavolo. I 10 tavoli sono tali, fatti in modo che tutti i partecipanti a Motosea, che oggi sono, diciamo, tra soci e partner sono circa 60, partecipano sostanzialmente a tutti i tavoli, quindi noi cerchiamo di trovare le soluzioni ai problemi che spesso portiamo ai decisori politici, perché per noi è fondamentale anche questo, sì, il decreto rilancio, il decreto semplificazioni, di fatto credo che abbiamo dato un buon contributo, non tutto è andato benissimo, ma insomma stiamo cominciando a muoverci anche qui in Italia. Insomma, abbiamo praticamente cercato di analizzare bene tutto. Diciamo che il vantaggio più che altro è per noi, oltre che per le persone che hanno seguito l'evento, perché noi volevamo e abbiamo tratto alcuni spunti molto importanti anche dagli ospiti, quindi è stata sostanzialmente una giornata di lavoro. Ecco, quali spunti avete tratto da questa agenda di lavori così appunto ricca e intensa, che si tra l'altro suddivideva su più tavoli? Sì, beh, gli spunti che abbiamo avuto sono fondamentalmente ovviamente tutti e quattro, perché ad esempio sulla parte industria abbiamo cercato di capire bene qual è il contributo che possiamo dare tutti a questo, perché ad esempio il tavolo industria sta cercando adesso di capire esattamente quali sono gli strumenti migliori, analizzando i problemi. Tra i problemi che abbiamo evidenziato, evidentemente, per esempio, abbiamo tratto ovviamente quello del fatto che in Italia ci sono tante piccole industrie, PMI, fatte di pochi, diciamo, soggetti, diciamo, all'interno, che però non hanno la massa critica per presentare dei piani che abbiano un supporto. Tra l'altro i soldi esistono, ce ne sono parecchi che non sono stati spesi. Una delle cose importanti, ad esempio, è fare un buon inventario di quello che già c'è, che non è stato speso, e come, diciamo, migliorarlo. Poi cercare di fare reti di impresa per aiutare, perché evidentemente la transizione non passa solo attraverso il mondo automotive, in cui ovviamente è noto che noi siamo molto forti, soprattutto nella parte convenzionale, ma c'è da affrontare un po' tutto l'ecosistema della mobilità elettrica, che tutto è tranne che solo il mezzo. E quindi uno degli spunti, per esempio, è stato sicuramente questo. Sulle infrastrutture sono venuti spunti sulla semplificazione, ad esempio, anche lì il decreto semplificazioni fa qualcosa, ma deve fare ancora di più. Altra cosa un po' critica, per esempio, il trasporto pubblico, che sostanzialmente nel decreto rilancio ha visto un po' una frenata anche sui fondi che erano destinati alla mobilità, diciamo, agli autobus elettrici, per dirlo in maniera semplice, perché un po' con la scusa del Covid è stato detto: ma adesso per un anno possiamo tornare a comprare anche gli altri mezzi vecchi. In realtà i tempi di approvvigionamento dei mezzi pubblici sono talmente lunghi che evidentemente supereranno, certo, si rischia di innescare un circuito vizioso, esatto, in negativo e non in positivo. Esatto. Dall'alto di questa esperienza, così, questo approccio olistico completo rispetto alla mobilità, dovendo raccontare adesso agli italiani che sono in questo momento all'ascolto dove andrà la mobilità elettrica nel futuro, cioè cosa vedremo da qui ai prossimi 2, 3, 4 anni, che cosa potremo raccontargli? Allora, diciamo questo, intanto diciamo subito che noi il Covid non ha toccato molto lo sviluppo, perché abbiamo visto che i numeri sono sostanzialmente in crescita sempre, con un raddoppio ogni anno. Questi numeri sono ovviamente ancora molto piccoli, le do un dato così uno si rende conto bene. Nel mese di maggio, dove c'è stata la grande crisi, no, delle concessionarie che non avevano aperto compiutamente, sono state vendute 100.000 auto convenzionali ed è stato il 50% in meno, no? Le auto elettriche sono state vendute bene, di fatto, rispetto ai propri numeri piccoli, quindi hanno fatto 50% in più. Però 100.000 auto elettriche si vendranno nel 2022 in Italia. Quindi stiamo parlando ancora di numeri marginali. Il problema è supportare questa prima partenza. Noi non vogliamo l'incentivo a pioggia ai consumatori, vogliamo più l'incentivo all'industria che non ai consumatori. Però i consumatori hanno bisogno di questo primo incentivo per far partire il business. Perché se non si arriva ancora ai numeri, diciamo, che fanno, come dicono i tecnici, si fanno entrare nella learning curve, quindi nella curva di apprendimento, quella che poi dovrebbe far scendere i costi rispetto alle quantità, e allora sarà difficile che si possa partire bene. Cosa che invece sta avvenendo negli altri paesi. Quindi c'è bisogno, dice lei, sostanzialmente di lavorare su due fronti: da un lato i consumatori, e su questo si sta facendo ovviamente con tutti gli incentivi che sono stati messi in campo per l'acquisto di auto full elettrico ibride, dall'altro anche il mondo dell'industria. E ovviamente noi continuiamo a seguire questo dibattito e soprattutto le decisioni governative che riguardano questo settore. Intanto salutiamo e ringraziamo il nostro ospite, Dino Marcozzi, segretario generale di Motus, e ci risentiamo fra pochi minuti, come al solito nello spazio dedicato alle case costruttrici. Parleremo di Mercedes, continueremo ovviamente a parlare di elettrico, dell'offerta elettrica di Mercedes, ma non solo. A fra poco. Essere avere quest'estate diventa guida galattica per consumatori. 5 puntate speciali per esplorare presente, passato e futuro delle nostre abitudini di spesa. La guida ha già soppiantato l'Enciclopedia Galattica come indiscussa depositaria di tutta la conoscenza e la saggezza per due importanti ragioni. Primo, costa un po' meno. E secondo, reca la scritta Don't Panic, niente panico, in grandi e rassicuranti caratteri sulla copertina. Il mondo dei consumi, oggi più che mai, ha bisogno di punti fermi. Sono Maria Luisa Pezzali e vi trasporterò in una galassia fatta di prodotti e brand, storie entrate nell'immaginario collettivo. Essere e avere, guida galattica per consumatori, vi aspetta il sabato alle 13.30 e la domenica alle 16. Su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, entriamo nel dettaglio della produzione di un costruttore, Mercedes-Benz, che proprio sul fronte dell'elettrico, ma non solo, sta investendo molto, e ne parliamo in compagnia del nostro ospite, che è Eugenio Blasetti, responsabile stampa di Mercedes-Benz Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, abbiamo dedicato la prima parte della nostra trasmissione all'elettrico, con tutte le innovazioni che sono arrivate al tavolo di confronto di Motus E. Cerchiamo di capire come un costruttore come Mercedes sta affrontando questo tema, quello del full electric, per poi dedicarci al tema delle plug-in, che invece sembra essere per il momento una soluzione abbastanza seguita dagli italiani. Beh, noi crediamo assolutamente nell'elettrificazione, negli elettroni che entreranno dentro le nostre automobili. Abbiamo fatto un piano molto preciso fino al 2039, fino a 20 anni, che sarà la data in cui noi diventeremo completamente carbon neutral, quindi completamente sganciati dai carburanti fossili. È chiaro che praticamente il full electric è una soluzione interessante. Siamo stati i primi, poi oltretutto con Smart, a convertirci a questa soluzione. E mentre in città va benissimo l'automobile elettrica, con chilometraggi bassi, batterie non di grande dimensione, per le macchine più grandi effettivamente oggi le infrastrutture, i punti di ricarica sono circa 8.000 in Italia, miglioreranno negli anni, ma oggi è un po' complicato, devi essere veramente appassionato e motivato per comprarti una macchina elettrica di grandi dimensioni, perché effettivamente i punti di ricarica soprattutto ad alta potenza non ce ne sono così tanti in giro. Quindi o una cosa che noi abbiamo fatto per dare una mano ai poveri clienti che effettivamente non sanno come raccapezzarsi davanti a queste scelte, abbiamo fatto un'app che si chiama EQ Ready, quindi EQ è il nostro marchio elettrificato, che ti permette di fare una serie di domande, cerca di capire qual è il tuo stile di vita e ti consiglia la soluzione migliore, ti dice guarda sei pronto, una macchina elettrica può essere la macchina giusta o altrimenti magari la macchina più giusta può essere magari una plug-in hybrid, che in realtà è come avere la botte piena e la moglie ubriaca. E veniamo a questa soluzione che appunto è particolarmente apprezzata da chi non deve usare soltanto la macchina in città. Voi avete una vera e propria famiglia che è quella della EQ Power Generation, la famiglia delle plug-in hybrid della Stella, che si sta allargando sempre di più e adesso comprende anche tutte le compatte. Perché state puntando così tanto su questa soluzione? Perché effettivamente la soluzione è quella più corretta, perché permette di avere delle automobili che offrono una grande flessibilità. Quindi queste automobili hanno sia un motore che può essere benzina o diesel indifferentemente, più un grande motore elettrico. Quindi questi motori possono lavorare assieme o separati. Assieme fanno sì che queste macchine siano delle macchine sportive con potenze che vanno da 220 a 320 cavalli, quindi delle vere e proprie quasi delle supercar. Con diciamo la possibilità però di fare anche tanti chilometri soltanto in elettrico, quindi andiamo dai 110 chilometri della GLE, del nostro grande SUV, fino ai 77 chilometri delle macchine della classe A, della GLA, quindi delle macchine più compatte, ma naturalmente questo è disponibile anche sulla classe C e sulla classe E. E il fatto di poter andare solamente in elettrico, specialmente per chi fa un utilizzo cittadino durante la settimana, è un grande vantaggio, perché io la macchina la carico di notte a casa, quindi nella condizione in cui possa acquistare l'energia al prezzo più basso, quindi a 20 centesimi mediamente per ogni kilowatt, e quindi posso diciamo percorrere tutta la settimana lavorativa andando esclusivamente in elettrico, con dei grandi vantaggi anche in termini economici. Ma quando ho bisogno di andare fuori, quando ho un'urgenza, ho la flessibilità e la libertà di non essere legato a nessun punto di ricarica, perché la macchina può andare tranquillamente anche a benzina o a gasolio e può anche ricaricarsi durante la marcia. Ecco, proprio a proposito di questo, voi avete messo a punto un nuovo sistema che consente un miglior recupero di energia durante le frenate e durante le decelerazioni. Sì, perché è possibile diciamo gestire la modalità con cui l'automobile recupera energia, perché in realtà che cosa fa? Quando tu spingi il pedale del freno non aziona le guarnizioni di attrito, quindi i ferodi, ma in realtà aziona un motore al contrario, che quindi in quel momento assorbe energia, ricarica la batteria, e quindi in maniera estremamente efficiente. E questa gestione, che può essere anche un po', diciamo, un po' complicata, è gestita in maniera molto molto semplice, molto comprensibile attraverso diciamo i pedal che stanno dietro al volante. Certo, ecco, quindi dalle compatte ai SUV, dalle benzine ai diesel, l'offerta della EQ Power Generation è assolutamente ampia, anche come sottolineava lei per i diesel. A proposito di questo, voi siete stati fra i pochi a credere nel motore diesel di ultimissima generazione in un momento in cui sembrava che fosse il demone sceso in terra. Adesso i nuovi provvedimenti legislativi vi danno ragione, perché consentono ovviamente gli incentivi per tutte le motorizzazioni, compresi i diesel, che continua a essere, credo, un vostro sostanziale cavallo di battaglia. Lo è sicuramente, perché gli ultimi diesel di ultimissima generazione hanno dimostrato di essere il miglior compromesso, il miglior motore endotermico, sia dal punto di vista dell'efficienza, sia dal punto di vista del CO2 e degli inquinanti. Quindi in questo caso sembra quasi incredibile, i due nemici, quindi l'elettrico e il diesel, o perlomeno nemici, due nemici virtuali, ovviamente virtuali, certo, in realtà si alleano e creano quella che effettivamente è la miglior offerta, specialmente per quelli che fanno tanta strada e che hanno bisogno, perché il miglior plug-in è un diesel, perché gestisce il diesel a tantissima coppia e quindi la fase di ricarica effettivamente neanche se ne accorge effettivamente quando deve sia portarsi appresso un peso più importante che quello delle batterie, sia quando deve ricaricare le medesime. Ecco Blasetti, ne parlavamo prima, parlavamo degli incentivi messi in campo dal governo, tra l'altro partono proprio oggi, 1° agosto, che tipo di risposta vi aspettate? Diciamo che sono stati molto interessanti per quanto riguarda le macchine elettriche, quindi siamo sicuramente molto positivi per la nostra Smart e per la nostra EQC. Per le altre sono degli incentivi che effettivamente per quanto riguarda Mercedes, essendo limitati a circa 50.000 euro di prezzo di listino, per le nostre macchine diciamo di prezzo più elevato sono assolutamente ininfluenti. Noi in realtà oggi non abbiamo aspettato gli incentivi perché abbiamo dato a tutti quelli che portano indietro una macchina fino a Euro 5, diamo un incentivo Mercedes di 4.000 euro senza preoccuparsi poi che la macchina sia da rottamare o meno, a quello ci pensiamo noi. Se la macchina è buona la rimettiamo in circolo e diamo la possibilità a quelli che hanno macchine più vecchie, magari un Euro 3 che va proprio effettivamente buttata, possiamo dargli un Euro 5 che ha dei valori di emissione molto molto molto più convenienti. Quindi potevano essere migliori specialmente per le macchine di dimensioni più grandi, per quelli che effettivamente con la macchina ci lavorano, ma siamo assolutamente contenti. Ecco, a proposito di questi veicoli plug-in, Blasetti, come si avvicinano gli italiani a questo mercato? Quale tipo di finanziamento prediligono? L'acquisto in contanti, il leasing, il noleggio? Guarda, il modo migliore per comprare queste automobili, che sono indubbiamente più care rispetto ai modelli di derivazione, i modelli col motore endotermico normale, il metodo migliore non è comprarli in contanti, perché altrimenti il costo è immediatamente più alto, ma è comprarle con un full leasing o con un noleggio, perché in questo caso si beneficia istantaneamente dei tanti vantaggi che ci sono su queste automobili in termini di tasse, in termini di consumi, in termini di manutenzione, in termini di assicurazione. E sorpresa, macchine che costano a listino parecchio di più, con la rata di noleggio molte volte costano meno del modello di derivazione endotermico. Blasetti, siamo in chiusura, una domanda di rito: quali sono le prossime novità Mercedes che vedremo da qui alla fine dell'anno? Farà il suo debutto la miraglia di Mercedes, quindi la classe S, avviene sempre ogni 7 anni, per noi è quasi un momento importante perché la classe S sublima, raccoglie tutte quelle che sono le grandi innovazioni della stella, e questa macchina sarà incredibilmente tecnologica con delle innovazioni assolutamente incredibili che non vi svelo. E che invece vi sveleremo noi appena avremo la possibilità di vederla. Termina qui questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Eugenio Blasetti, responsabile stampa di Mercedes-Benz Italia. L'appuntamento con l'approfondimento di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.